Belle scena. Ce l'abbiamo fatta. Benvenute, Diciamo. benvenuti. Collettivo ZAM ospita questa sera la presentazione di un fumetto molto speciale. Un fumetto Tracciato Palestina che nasce dal progetto di West Climbing Bank, un progetto che è nato proprio all'interno di questo centro sociale qualche anno fa, insieme a Nagi, che è il presidente di un'associazione culturale che si trova proprio all'interno di uno dei campi profughi di Betlemme, Deisha, e da questa collaborazione è nato questo progetto. E questa sera finalmente siamo riusciti a portarlo qua. Siamo anche in diretta radio. Per chi, a parte mia mamma, ci ascolta, spero. E niente, stasera sono qua con noi appunto Naji, che è il presidente di Leilac, e Mahmoud, che è uno dei volontari, che io ho avuto la fortuna di conoscere già qualche anno fa ed è cresciuto tantissimo in questi anni, ed è uno dei più grandi arrampicatori del campo profughi di Deisha. E do subito la parola a loro che introducono un po' sia la situazione in Palestina in questo momento che il loro punto di vista, soprattutto di Mahmoud, un giovane ragazzo che abita in un campo profughi e pratica l'arrampicata. E poi partiremo anche con la presentazione vera e propria del fumetto. Mahmoud, if you want to start, okay. Amneja Balich, Aki. Tondo, yes. Okay, I will start. So, I'm Mahmoud, I'm 15 years old, and I'm from the Hesha refugee camp, and I'm volunteering in Leilac Center. So, and استنى، I'm. محمود خليهم يترجموا. Okay. You can translate. Mahmoud, if you want, you can also speak more and we can translate after, so you don't need to stop. But I will start Okay. with the first part of your introduction. Lui è Mahmoud, ha 15 anni, fa parte del gruppo di giovani che arrampica nel campo di Desce, dove vive. Oh, I'm so happy to be with you and to see you again, and I hope to see you to come to Palestine another time. So I will start to talk about my experience, how we start to go to climb and something like this. So when I start to go to climb, I was 10 years old, and we was going to in this time we was a group of the children and friends. I was going to like day to have fun, because like maybe you know in the camp there is like no places to play or to do anything, so we was trying to find some places to play to have fun. And in that time we went to Leilac, and the group of West Bank climbing team, they was there, and they start to share with us how to climb. And we like in the rooftop they built a small board to climb in it, and we was like training, and it was so like so for us so interesting, and it was so good thing for us, and we was have fun a lot there. So, and they was always talking to us about Batir, about the mountains, like because we was children, we can't go climb like straight, we should train a lot. So we was so excited to go out the Hesha to climb, go to the mountain. And someday we went to Batir, and it was like so nice day, and I don't forget it. We start to like to challenge with us with my friend to climb this high mountain, and we was talking a lot about this, and it was so like really a new thing and so interesting. So we start to climb, and it was like in the beginning we was afraid from the mountain, but after we it was yani it's okay. So we climbed and it was so nice. After this time we like grow and we start to make a lot. Mahmoud, we can't hear you. Can you try to mute and then reactivate the microphone? Hello. Okay. Hello. Yeah. Now it's working. Now you hear me? Yes. So yeah, for me the experience was like so nice, and this is what I can talk. Ok, I will translate. Mahmoud ci ha detto che appunto ha iniziato ad arrampicare quando aveva 10 anni. E all'inizio erano appunto un gruppo di ragazzini, di bambini, lo facevano soprattutto nell'ambito del campo profughi, quindi su delle piccole pareti, sui tetti, erano poche occasioni di gioco e di svago che avevano. Poi a un certo punto hanno incontrato i volontari del centro di Lilac e proprio al centro di Lilac hanno incontrato per la prima volta un gruppo di climbers che era lì diciamo in uno dei progetti, immagino, di scambio di solidarietà come quello di West Climbing Bank, che li ha portati ad avere più occasioni di allenamento vero e proprio sull'arrampicata, all'inizio su piccole pareti, ma poi prendendo confidenza nel tempo ad andare anche in montagna, che era poi la cosa che loro desideravano di fare più di tutte, continuando però ad allenarsi anche nel campo. E la scoperta, diciamo, poi l'avvicinamento alla montagna è avvenuto a Battir, dove appunto tuttora appunto è in corso anche il progetto di West Climbing Bank, dove si continua ad arrampicare. Per loro è stato bellissimo la prima volta arrampicare in falesia, e avevano paura ovviamente dell'altezza della montagna, però allo stesso tempo voglia di imparare e di migliorare la tecnica e quindi di continuare ad arrampicare, ed è quello che tuttora fanno. If you want, you can continue. I'm not موجود. Hello. موجود. مش عارف أنا حكيت ويعني أتوقع. Talk to them. Yeah, if you want. Pure se ci sono domande da qua che possiamo fare a lui, اسألهم إذا بدأ يعني أنت إذا خلصت كل ما خلصت. If anyone have any question, I can maybe answer, and I just like, I think I finish. Okay. In the meantime, we have a question for you. They ask you how far is the place where you go climbing? How long does it take to reach Battir? Do you need to bring with you all the equipment by car or by bus? How do you reach the place? It's not so far, like it's maybe take in the car maybe 20 minutes, something like this, but the only like problem happened with us, maybe if we want to go to there, like if there is like, you know, settler or soldiers in that place, because you know this place Battir, the place we was going to climb there, it was like near to the settlements and near to the like Israeli roads, so a lot of time like the soldiers come there and be there, so before to go there we like was checking the place and something like this. Okay. Diciamo, ho detto, non è che sia tanto lontano, sono 20 minuti in macchina. Il problema è che Battir sulla direttrice di espansione di alcune colonie israeliane, e quindi spesso nella zona comunque si incontrano i coloni che diciamo tentano anche un po' di sabotare le attività sportive all'aperto. Insomma, questo è capitato anche durante il periodo del Covid, insomma, da quello che ci hanno raccontato. E inoltre ci sono le strade, diciamo, riservate, come dire, comunque abusive, ma comunque israeliane, che non possono essere percorse dai mezzi palestinesi, quindi un posto, anche se a 20 minuti di macchina, spesso è quasi raggiungibile, o comunque molto problematico. Ok. Yeah, Now we here can Jonathan, continue if you yes. want to just to start, Naji, or I don't know. Okay? Yes, yes, So, yes. okay. Ce l'abbiamo fatta. Ora finalmente Naji ci sente, noi sentiamo lui e quindi ci racconterà un pochettino il suo punto di vista, la situazione al momento. Ora mi sposto. Again, hi everybody. I am so excited to see you all, and we hope to see you each other like physically somehow very soon. Yes, I'm Naji. I'm working at Leilac organization, and I will not add anything about the climbing because for Mahmoud, I don't know. I don't hear him very well actually, but I think this kind of sport, let's say. Not only sport, it's physical training, it's brain training, it's connected with the land, with the open spaces, whatever. And we are not, as a Palestinian, before we know you, it was not much information how to deal with this kind of sports. But finally, people, they started. And they always ask us to go to the places and to make the climbing. And many times it's happened during and after when the climbing group left to Italy back. I would like to say about the situation in Palestine much more, especially in West Bank. Maybe. For you in Europe, you follow up what's going on in Gaza with the bombing, with the ethnic cleansing, with the genocide happened there. But in West Bank, it's totally a little bit far from the news and whatever. To be honest, I would like to say that since the 7th, 8th, or 9th of October, we are in West Bank. We didn't sleep well, especially in the Esher camp, like the other places, Tul Karem, Jenin, Qalqilia, North Palestine, and South Palestine. We don't sleep much because we know that the Israelis, they start using the war law, let's say, and they have like they're changing everything how to deal with a Palestinian. As they mention that officially, they say that a Palestinian like animals, human animals, whatever. Now, for us, we know that, and it's a big challenge how to deal with this situation. It's changed immediately from the 7th of October how to deal with this situation. Now, the Israelis, they keep attacking all the areas, all the places, all the little villages, all the refugee camps. Now, I can't talk much about the Esher camp, even I follow the news around in all refugee camps and West Bank, but in the Esher camp, since that day, started very tough to attack somehow nightly, even some days it was twice. To attack the camp, they enter the houses, they damage everything, and after that they leave. They arrested a lot of people from here for a while, beating them too much. I never heard that somebody get arrested and he left back home. Always, since he released, he going directly to the hospital. To check because they are very tough beating people, hanging them in the car and beat them, all the soldiers, whatever. Now, this is what's happened in West Bank, and we know that the situation, it's become back to us, second intifada, first intifada, whatever. And we started to understand what's going on. Many people, they forget, not forget for a while, that they keep going to work, but now there is no working. They keep traveling and no traveling right now. All the areas still blocked. Bethlehem area, which is very small area. Now there is, we can't go to Hebron, especially we go snacking somehow. Vabbè, intanto proviamo a tradurre la prima parte. Allora, intanto è felice di vederci e spera di vederci. Di vederci al più presto anche dal vivo. E, ha detto non, la premessa è stata: non parlerò molto dell'arrampicata perché immagino ne abbia già parlato Mahmood. Quello che posso dire su questo sport, come in generale su altre attività sportive, è che è un allenamento non solo fisico ma anche mentale ed è molto importante per i ragazzi del campo. E inoltre l'arrampicata nello specifico ha un valore aggiunto perché mette anche in collegamento le persone con il paesaggio, con la natura e quindi con questi aspetti che vanno al di là dell'allenamento fisico. E, all'inizio c'era poca conoscenza di questo sport, ma grazie anche agli scambi internazionali si è migliorata anche la tecnica, l'allenamento. E... Ok, Naji, I am translating the first part and then I give you back the word. Okay. Quindi all'inizio c'era poca conoscenza, poi questo sport si è sviluppato sempre di più nel campo e a Battir. Rispetto alla situazione in West Bank, in Cisgiordania, dal 7 o dall'8 ottobre in poi, ovviamente la situazione è chiaramente peggiorata. È cambiato in peggio appunto il rapporto dell'occupazione israeliana nei confronti dei palestinesi, in una relazione ancora più, diceva, siamo trattati come animali, cioè ancora più disumanizzante. E, sono aumentati gli attacchi, i raid nei villaggi, nei campi, nei piccoli centri, che si trovano anche in una situazione di maggiore isolamento tra loro. Ci sono attacchi di notte che già c'erano prima, come anche noi abbiamo avuto esperienza di provare nell'ultimo viaggio, ma adesso ce ne sono anche più di uno per notte, quindi sono aumentati. Naji ha fatto un'esperienza anche sulla propria pelle di questo tipo di incursioni, che si traducono ovviamente in diciamo distruzioni delle case, delle strade, le persone vengono picchiate e arrestate. Lui non ha mai sentito parlare di qualcuno che dopo essere stato arrestato e rilasciato torna direttamente a casa. Tutti vanno prima in ospedale a farsi controllare o medicare perché vengono sistematicamente picchiati. E niente, quindi quello che poi stava continuando a dire è che faceva un parallelo tra la situazione attuale e quella della prima e della seconda intifada come, diciamo, punto storico di regressione, di ritorno alla violenza dell'occupazione. Naji? Yes. Are you there? Ok, if you want you can continue. Stopped to listening you when you were mentioning about the second and the first intifada. You were making a comparison, and then if you want you can continue from there. Yes, thank you. There is no comparison actually, but we start thinking about it because our daily life, I can say clearly that in West Bank people, they start after 30 years let's say normalized from their brain to understand that it's easy life. People, they can work, they can get the money, they can have a fancy car or a new department, whatever. Now, to get good salary, whatever. working in Israel with the settlements and the colony, going to the bank and take money from the bank and whatever. Now, people in one day, they stopped to do that by force because it's happened the 9th of October, which is 6th of October. Now, people, they have to change and to shift. We were talking about that before, but some people, they don't understand. It was a big shock for them, but for us, it was, for me, as a person, I'm always talking about it because I understand that we shouldn't do that. We shouldn't normalize our brain, how to deal with the situation and how to live under the occupation. Now, finally, people, they started like that and they lost their job. They lost their fancy car. They start to block the little area and they can't move out. The Israelians, they are tough before, but they become more tough, more direct action against the people, against the person, against the everybody. And there is a law, Israeli law right now, with the Israelis, if you just move near them while walking or by your car, immediately they shoot you. They kill you immediately. They don't care if you are just passing, whatever, old man, children, whatever. And it's happened several times in West Bank. Now, the idea that they block the area and they keep some doors open, gates, blocking between area and the villages and the city. Now, it's somehow it's open. You can move it by your hand. But if you move it, like what's happened last week, if you move it just only to pass by your car, immediately the soldiers, they're hiding somewhere, they shoot you and they kill you. Now, the idea that we have to be careful to deal with this situation and also to stay with the family and the community and to keep the community very strong, to try to be around your community, try to talk to them always, try to make some activities in order to keep the communism inside the society. Because if you become alone, you feel individual, you feel as a personal life, it will destroy all the life, not only for you, even for neighborhood, even for your neighbor and the family. Now, for that, we start to be more closer right now, even with all the problem. If it's anyone get arrested, everybody go to his house to support the family. If someone gets the martyrs, you can see 1,000 people, they reacting and moving and standing, belong to the family for support. Now, this is the real life of the colonialism. The life of the colonialism, it should be like that, not to change at all. This is what we believe, and this is always, we try to talk to the people to, yeah, we don't want to remember you. The colonialism, it's like that. This is the face. This is the Dracula face for the colonialism. Don't forget that even in peacetime or in the quiet time. Now, what's going on right now, there are some people want it. I don't know why they want it, but they put them in the wanted list, let's say. They ask for them. While those people, some of them, they don't do nothing. They arrest them sometimes. When they attack the house, they demolish everything. They beat everyone. And after, they release them after a few hours, broken hand or legs or head, whatever. Now they go into the hospital and they come back. Especially with a family that they have been, let's say, arrested before. It's happened several times. Now, I have a family here. Like I know families, let's say, inside the camp, they attacked their house more than 7 times right now. Each time they come to broke and to damage something already damaged, because people, they don't fix in the door, they don't fix in the fridge, they don't fix in the kitchen. Always they come and they say, they saw like everything is damaged and they keep damaging and making the holes. Maybe I send some photos of that with Julie or some cameras. Now, it's always they do that. Now they're still doing that. It means that they put us in a scary situation, let's say, and to keep thinking, to add trauma more, and to keep thinking about them. Now, for that, for us, we, everybody, I don't know, we can't control that to say, okay, we're going to sleep deeply, and when they come, they come. We can't do that. I can't control myself. Now, always when the sunset started, you know, people shaking, let's say, and keep thinking about what's going on. Now, when they came, always, it happened many times, the Israeli and the attacks in from 100 soldiers coming from different sides, surrounded the house and attack, and they discovered that people, they waking up, making coffee and drinking coffee, waiting for them. Now it's crazy, you know? And they asking, why you wake up? She said, okay, now we can't sleep, and that's it. This is the answer always. Now, I'm sure that they can do a lot of things, but for us, as I mentioned before, we just have to be constrained. We have to be like controlled in our mind, how to deal with this situation, not to react, because if you're reacting, we know that. If they attack your house and you react, immediately they can shoot you, they can beat you too much, or in front of your family as well. Now, this is general situation, but it's keep going on. It still happen daily. Now, maybe tonight, maybe tomorrow, now, nightly they came to different area, but who knows where they will attack, who will arrest it, and whatever. Now, this is in general, but for Gaza, sorry, I want to add these things. In Gaza, inside the jail, they live very hard condition. They isolate them, and they don't feed them food, medicine, water, a lot of things. In West Bank, it's not the same, less, but also the same situation. If anyone released, immediately he will beating too much from the soldiers. And as I mentioned, they go back from the jail immediately to the hospital, like what's happened with us. We go to the hospital first, and after that we come back, you know, with someone broken shoulders or, I don't know, stitches in his head, whatever. Now, this is the situation right now in general, and they arrested people for a lot of people, hundreds, even thousands started in general in West Bank. When they arrest them, they judge them administrative detention for 6 months or 4 months. Now, this is general view. Maybe we can go deeply, depends of your questions. Okay, thank you. Allora, sì, quando aveva iniziato a parlare della prima zona intifada, in realtà lui stava dicendo un'altra cosa, cioè che da allora la vita quotidiana dei palestinesi in Cisgiordania si stava in qualche modo normalizzando, cioè le persone nel tempo, in questi decenni, avevano iniziato a trovarsi un lavoro, a pensare ai piccoli privilegi agili della vita, avere una macchina, andare in banca a ritirare i soldi, diciamo quasi una normalità, e per molte persone questa cosa era accettabile, nonostante sullo sfondo ci fosse, come c'è tuttora, comunque una condizione di coloniale di oppressione, ed era normale per molte persone anche andare a lavorare nelle colonie, quindi molti palestinesi di fatto fino a ottobre, perché a quanto pare si sono fermate un po' anche le relazioni e rapporti lavorativi di questo tipo, andavano a lavorare all'interno delle colonie, ad esempio come operai anche nella costruzione proprio delle case. Tutto questo si è interrotto bruscamente da ottobre, e quindi per molte persone, la maggior parte dei palestinesi, anche della comunità di cui fa parte Nagi, si sono accorte, diciamo, del problema, notando, diciamo, l'interruzione di questa sorta di normalità. Ma in realtà per Nagi e chi come lui appunto da tempo osserva in un altro modo questi fenomeni, sa che appunto non è mai stata una vera normalità, però quello che, diciamo, è successo con questo, diciamo, con questo cambiamento è che la comunità si è resa conto di avere bisogno di stare molto di essere più solidale, di tenersi tutti uniti, di stare insieme, di condividere di più momenti di solidarietà. E lui diceva è come se avessimo instaurato il comunismo dentro lo Stato, cioè lo Stato è la situazione in cui generale in cui sono, anche di segregazione, di difficoltà di spostamento, di tornare a una sorta di normalità. All'interno della comunità invece recuperare rapporti di maggiore solidarietà. E lui dice una cosa che è cambiata, che, di cui parlava anche prima, è che ovviamente quando sei arrestato poi la reazione, quello che è cambiato rispetto a prima è anche che quando qualcuno viene arrestato oppure subisce una distruzione della casa o violenze comunque da parte dell'esercito israeliano, la reazione che c'è da parte della comunità è più forte di prima, tutti vanno a protestare in maniera più compatta, quindi paradossalmente c'è in qualche modo un effetto di quella della situazione tragica che si sta vivendo da qualche mese, ha portato la comunità a tenersi più unita, a stare più unita nelle difficoltà. Ma il colonialismo appunto c'è sempre stato, e niente, quindi poi questo è un po' quello che ha detto nella prima parte. Poi ha parlato un po' degli attacchi che stanno avvenendo appunto nelle case e nei confronti di alcune famiglie. Quello che ha notato appunto che è cambiato di recente è che le stesse famiglie subiscono più volte più attacchi e quindi vivono in una condizione di trauma continuo. È come se queste persecuzioni nei confronti di alcuni nuclei familiari, di alcune persone in particolare, fossero una sorta di tortura per indurli in un trauma continuo. Lui parlava proprio di questo e ha condiviso con noi anche nelle ultime settimane delle foto, dei video, proprio per testimoniare quello che paradossalmente succede sempre alle stesse persone all'interno della comunità. E quello che ormai è la normalità è che al tramonto tutti si aspettano che succeda qualcosa, perché è quando poi si interviene, quando l'esercito interviene, quindi durante la notte. E niente, poi sì, quello che dice è loro stanno cercando di mantenere soprattutto un controllo di tipo mentale. La resistenza in questo momento è soprattutto nell'animo, nella mente, perché anche una piccola reazione, una minima protesta può portare a delle reazioni molto forti da parte dell'esercito. Tra l'altro su questo ho saltato un pezzo, prima parlava di una legge che è stata introdotta dall'esercito israeliano per cui in alcune zone ritenute sensibili o comunque strade, presidi, nei pressi delle colonie e quant'altro, ritenuti comunque punti sensibili da parte degli israeliani, questi ultimi sono autorizzati a sparare a vista, quindi molte persone semplicemente, molti palestinesi vengono uccisi soltanto perché magari si fermano, accostano con un'auto magari in una certa strada dove non dovrebbero passare, addirittura in alcuni casi abbiamo visto anche passando a piedi, ad esempio a Hebron ci sono proprio anche dei coprifuoco, insomma, quindi la situazione è un po' questa. E poi l'ultima parte che ha detto, ha iniziato a parlare di Gaza dicendo che lì la situazione è drammatica, è quella che anche noi riusciamo a percepire da qui, è una prigione a cielo aperto di fatto. In West Bank la situazione è meno grave, però c'è comunque una carica violenta non inferiore, più questo. Ok, vogliamo fare domande? Grazie. Prima? Se magari qualcuno ha qualche domanda, non so dove mettermi, da fare direttamente a Mahmoud o Naji, così poi invece passiamo alla parte più strettamente legata al fumetto. So che non è facile, non sono cose semplici e leggere, però magari loro sono super disponibili e l'importante è parlarne. Maybe someone has some questions. I don't know. Allora continuiamo. Vado col fumetto. Naji, you want to tell us something else? You want to continue? No. Ah, no, there is a question. Okay. I wanted to ask to Mahmoud, how is going with school? Which class are you attending now, and in general the situation? So, okay, start. Can I start? Yeah. Hello. تقدر محمود. Okay. So from like the beginning of 7 October, like the school are, we can say like it's close 90%, because like, you know, in the West Bank, maybe Naji said, they closed all the roads and they bought a lot of checkpoints, so the students cannot go to school and come back, and it's so dangerous. And as Naji told you, like, if you go, they can shoot you and nobody can ask. But like, they try to make it online and in Zoom, something like this, but it's not working very well. Like, it's like very hard, and it's big problem happened like in the schools. Like, yeah, it's hard. No, Viola gli ha chiesto come va con la scuola, se la stanno frequentando, e Mahmouda dice che al 90% è chiusa, non tanto magari perché la scuola in sé è chiusa, ma perché soprattutto le strade magari per raggiungerle sono bloccate, sono chiuse, sono interdette, e stanno cercando di fare didattica a distanza, quindi online, però non sta andando proprio bene, non funziona. Nessun'altra domanda? No. Naji, do you want to say something else, or maybe we can continue with the graphic novel, as you want? Yes, last point I have to talk about it. It's we as a Palestinian, we live for dignity now. We will not lose our dignity at all. We know that they believe when they beating someone or ask him whatever to do, because the Israeli soldiers, they always try to joke, to make a joke and to play even during that time. As when they come to my sister, for example, they found children's beer, you know, children's beer, a dope, like big one. And they bring him back from the room, and they asking for his ID card. It's kind of, you know, sad to play. And my sister told him, still young, he don't have ID card yet. Now, this kind of things is trying to play with our dignity. But our dignity, that I don't feel shame. I don't feel shame at all. If they attack my house and beating me in front of my children, I don't feel shame, because I'm proud what I'm doing. It's a challenge. It's kind of a challenge. Let them to do whatever they want, but we still here. And we can express ourselves when they attack your house and you start you preparing coffee and smoking and talking, whatever, all the family together. Now, this is the big answer for what they are doing. Now, this is the idea. And they will lose. For sure they will lose, because they don't know what to do. What does it mean if they broken the glasses inside the house or the windows or whatever? This is bullshit for us. We don't care about it. But we can, you know, we can survive and we can manage without even. Now, this is the idea. Now, we're still strong. Yes, it's hard situation, but we're still strong, and we will keep continue struggling, and we will survive, and we will win finally. Ha usato delle parole abbastanza, diciamo, abbiamo capito un po' tutti. Ha parlato di dignità, ha detto che è quello che ci resta e che dobbiamo tenerci stretto. Ha fatto un esempio dei soldati che giocano, prendono in giro quando, durante i raid, nel senso che proprio fanno anche delle cose proprio per umiliare i palestinesi. Ha fatto l'esempio della sorella che durante un'incursione in casa i soldati hanno preso, non so se ho capito bene, l'orsacchiotto del figlio e chiedevano i documenti anche a quello. E le diceva no, non ce li ha. Insomma, comunque anche siparietti, cioè scene di questo tipo proprio per umiliare le persone, ma Managi dice: noi non abbiamo vergogna di questo, noi non proviamo vergogna se ci picchiano davanti ai nostri figli, perché sappiamo che anche se ci rompono le finestre di casa, battono le porte, le mura e tutto quello che fanno, sappiamo che loro in realtà perderanno perché non sanno cosa fare, fanno queste cose, non sanno dove stanno andando. Noi invece siamo in grado di resistere, sopravviveremo e quindi fino alla fine resisteremo. Thank you, Naji. Allora io procederei con la presentazione del fumetto. Se Naji e Mahmoud, they want to stay with us, maybe later will be some question. I don't know. Now we continue with the graphic novel, but it's about you, so it's important for us to join us. And I will talk in Italian, but if you want, we can make a translation, okay? Thank you. Eccoci. Sì. Come vuoi? Vuoi mettere la panca? Momenti di organizzazione. Allora, faccio una brevissima introduzione del progetto di West Climbing Bank per poi dare la parola all'autrice Elena Mistrello e anche a un altro ospite speciale della serata, Chicco Elia, giornalista e co-direttore di QCode Magazine, che è un profondo conoscitore della Palestina. Non mi ricordo quante volte sia stato laggiù, ma è stato giù anche recentemente da quando da dopo il 7 ottobre, ed era tanto che desideravamo averlo qua con noi perché appunto conosce bene il territorio e il popolo, la situazione socio-politica, e anche recentemente ha scritto un libro, J'accuse, quindi sicuramente avrà delle importanti considerazioni da condividere con noi. In realtà Mahmoud ha già un po' introdotto quello che è il progetto West Climbing Bank. Nel 2017 Naji era qua in Italia con un'altra collaborazione, con un'altra associazione, Casa per la Pace, e ha chiesto in giro di un gruppo di arrampicatori. E per fortuna gli hanno indicato il centro sociale ZAM, che ha una palestra di arrampicata autogestita, l'acciaieria. Lui è arrivato qua, si è presentato e ci ha chiesto se eravamo interessati e interessate a fare questa cosa con loro. Noi abbiamo detto di sì ed è nato il progetto West Climbing Bank. All'inizio eravamo pochissime persone, siamo andati in Palestina principalmente per conoscere il territorio, conoscere la situazione socio-politica, appunto, le persone. Infatti abbiamo viaggiato all'interno della Palestina, visto svariate città, conosciuto diverse persone e comunità, anche se poi facevamo base al campo profughi di Deisha, proprio nell'associazione Leilac. Abbiamo ovviamente il principale fine del progetto West Climbing Bank è usare uno strumento, uno sport come strumento di riappropriazione del territorio contro l'occupazione israeliana, in questo caso l'arrampicata. Già dei francesi prima di noi avevano conosciuto Leilac e collaborato con loro, ma loro avevano bisogno di qualcuno con cui proseguire il progetto. E quindi hanno trovato noi. Il primo viaggio, appunto, abbiamo conosciuto Leilac, Naji, Mahmoud e tutti gli altri, le altre volontarie. Abbiamo conosciuto il territorio, abbiamo trovato Battir, che non immaginatevi una falesia molto alta, anzi, sono piccoline, ma è un luogo estremamente importante perché sarebbe patrimonio dell'UNESCO. Ma purtroppo i palestinesi ci vanno soprattutto per fare passeggiate, picnic. purtroppo è sempre abbastanza sotto assedio da parte dell'occupazione israeliana. Spesso lo mettono sotto, bloccano l'ingresso dicendo che appunto è zona militare sotto sicurezza e quindi i palestinesi e le palestinesi non possono entrare. Usare l'arrampicata in questo senso per riappropriarsi del territorio diventa uno strumento, un mezzo politico davvero importante. Da quel momento in poi siamo tornati più o meno tutti gli anni, tranne gli anni del Covid. Abbiamo fatto diversi progetti, oltre che magari dei momenti di corso proprio perché sul tetto di Leilac c'è una piccola palestrina di arrampicata dove esercitarsi, con i ragazzi più giovani facevamo proprio dei momenti di allenamento, abbiamo fatto dei corsi per imparare bene le manovre, fare sicurezza, siamo andati anche in altri campi profughi, soprattutto ad Aida, un altro campo profughi di Betlemme, e nel centro, un altro centro culturale a Mala Mustaqbal, abbiamo anche lì costruito una piccola paretina per i bambini. È un centro che al mattino funziona da scuola materna e il pomeriggio come centro sociale e culturale. È importante questo perché una delle persone più importanti che animano quel centro culturale, esattamente da un anno è in carcere, è stato arrestato con la detenzione amministrativa, che è uno strumento abbastanza bieco del governo israeliano, dell'esercito israeliano, di arrestare indiscriminatamente le persone palestinesi perché ritenute pericolose. Senza processo, senza prove, senza nessun mandato di accusa, vengono prelevate, messe in carcere e spesso non hanno la possibilità di vedere gli avvocati, le famiglie, e questa cosa può essere protratta per svariati mesi, se non addirittura anni. Il nipote di Naji ha subito questo trattamento svariate volte e Bilal, il nostro amico e compagno, tuttora dopo un anno è ancora in carcere. Da lì in poi appunto il progetto è andato avanti, siamo andati anche a Nablus, abbiamo conosciuto la comunità di arrampicatori anche di Ramallah e l'anno scorso, il progetto ovviamente è un progetto aperto, chiunque può partecipare, di solito non è richiesta come prerogativa il saper arrampicare, anzi è una parte importante, poi però bisogna essere coscienti minimamente di dove si sta andando, disposti a conoscere la realtà. Saper arrampicare è bello perché è uno strumento per entrare in relazione con le persone del luogo che sono interessate, però non è l'unico strumento che si può utilizzare. E infatti l'ultimo anno al progetto di West Climbing Bank si è unito un folto gruppo proveniente dal centro sociale Boccaccio, e tra questi Elena, che è un'illustratrice e ha questo fantastico talento di saper disegnare ciò che vede, ciò che sente, e da qui è nato il fumetto di Tracciato Palestina. Quindi io non dico nient'altro e lascio la parola a lei e a Chicco in seguito per poter parlare un po' di quello che è anche la situazione. Grazie. grazie Mahmoud e grazie Naji, ciao. Grazie Giulia per l'introduzione. Sì, allora, come diceva Giulia, West Climbing Bank in realtà non è un progetto solo per arrampicatori, perché appunto l'ha detto, perché io non arrampico, e quindi metto subito in chiaro questa cosa, e ci ho arrampicato solo una volta, e appunto come progetto, dopo ogni viaggio che io sappia, appunto c'era una serie di incontri di restituzione a prescindere dal fumetto, nel senso che l'hanno sempre fatto con fotografie, con racconti e con vari altri modi. E nel nostro caso appunto sono venuti in Boccaccio a presentare il progetto, quella stessa sera tra l'altro c'era anche Sarura, che se non avete visto consiglio sempre, adesso è in free streaming, e appunto in quella sera hanno raccontato quello che avevano fatto l'anno prima Insomma, questo. Io appunto dicevo prima anche a Christian che ero tra quelle persone, penso di non essere l'unica, per cui la Palestina era un po' uscita dai radar, insomma, cioè, leggevo poco, mi arrivava poco, e sebbene avessi ovviamente una posizione politica già ben precisa, però ero molto meno attenta alla questione. E, quindi, insomma, sono rimasta sorpresa e contenta che fossero venuti a presentarlo lì. E poi, appunto, siccome il Boccaccio, anche noi, loro, la palestra, una palestina d'arrampicata, si è deciso, insomma, eravamo un po', si è deciso di unirci. E niente, io all'inizio appunto non avevo intenzione di fare un fumetto, non era senso nella, cioè non ci avevo neanche pensato, però appunto siamo stati lì e, come diceva Giulia, è un progetto che ha un po' il pretesto dell'arrampicata, per poi in realtà creare una rete di solidarietà con la Palestina. E in questo senso, infatti, durante il viaggio poi si va a parlare con diverse associazioni, famiglie, ragazzi e ragazze dei campi profughi, con varie realtà, ecco. Quindi è un viaggio appunto anche con questo scopo, soprattutto con questo scopo. Tra l'altro, poi l'anno in cui siamo andati noi, non so se è arrivata notizia, però era un po' l'anno era l'anno della lista delle associazioni terroristiche stilata da Israele, in cui appunto c'erano Defense for Children, che si occupa appunto dei diritti dei bambini palestinesi, ma anche Alak, che si occupa invece di diritto internazionale, e non mi ricordo mai l'acronimo, ma il sindacato delle donne di Gerusalemme. E quindi, insomma, è stato particolarmente interessante, perché abbiamo avuto occasione di parlare con alcune di queste associazioni all'interno di questa lista, quindi molto diciamo di impatto, poi rendersi conto di con chi se la prendevano, ecco. Quindi, vabbè, insomma, questo un po' per dire il tipo di viaggio che è, ecco. E io appunto, sebbene avessi ovviamente una conoscenza prima di alcune cose, devo dire che finché poi non le ho vissute, non le ho viste con i miei occhi, non mi erano chiare, non che adesso lo siano particolarmente, ma comunque cioè, insomma, l'evidenza, ecco, dell'occupazione è sicuramente molto più, cioè, innegabile, ecco, una volta che ci si va di persona. E un po' il desiderio di questo fumetto è far sì che, ovviamente, non tutti possono andare, e non è, cioè, non è che non, quindi, però è un po' portare più gente possibile in viaggio con noi, anche attraverso il racconto. E un'altra delle intenzioni, delle ragioni che mi hanno spinto poi, a una volta tornata, a scrivere il fumetto, il fatto che, come avete visto, i racconti dei palestinesi e delle palestinesi che abbiamo sentito e che avete sentito voi anche adesso sono sempre molto, molto forti. E una cosa che spesso ci veniva da chiedere era: ok, adesso tu mi doni questo tuo racconto, che sicuramente ti costa anche fatica ripetere la tua storia, la tua resistenza e tutto quanto, e io cosa posso fare? E una richiesta che spesso ci veniva fatta era quella di tornare a raccontarlo a più persone possibili, compagni, familiari e amici. Quindi nelle intenzioni del fumetto c'è anche questo, ecco, che appunto arrivi a più occhi e orecchie possibili. E un'altra cosa è sicuramente quella che tra le cose che ovviamente di cui avevo sentito parlare un po' da sempre nel mio percorso, era appunto quello della resistenza palestinese, ed è stata una cosa molto, molto bella, ecco, cioè conoscere quella forza con i propri occhi, col proprio corpo. Quindi una roba che mi piacerebbe un po' riportare appunto è questa cosa qui, cioè, finché c'è un popolo che lotta per la sua terra e per la sua libertà, vale la pena continuare a parlarne in tutte le forme possibili che ognuno ha, ecco, nel mio caso appunto quella del fumetto. Faccio una precisazione, ovvero che appunto invece quello che non vuole fare il fumetto è quello di avere un quadro complessivo, quindi non è assolutamente un fumetto esaustivo, né sulla Cisgiordania in generale, né tantomeno sulla Palestina, ma racconta di un preciso momento e di un preciso spazio che appunto, come avete capito, è quello del campo profughi di Betlemme, Deisha, anche se poi appunto ci siamo spostati in altri, però ecco, quella è l'area, ecco, e quindi non spiega nulla, racconta quello che è quel viaggio, ma all'interno di quell'esperienza di viaggio ci sono sicuramente delle cose che possono aiutare un po' a un'introduzione, ecco, forse ad alcuni argomenti. E, alla luce poi del periodo appunto che stiamo vedendo, di quello che sta succedendo, è sicuramente utile un po' a capire che appunto le cose partono da molto molto prima, ecco, e evitare quella narrazione un po' dei media di far partire tutto dal 7 ottobre, ecco, invece appunto parte tutto da molto prima, e questo fumetto un po' aiuta in questo senso. E un'altra cosa che ci tengo sempre a specificare, che l'ho scritto e disegnato io, ci tengo molto a dire che appunto non sarebbe stato lo stesso se non fossimo stati un gruppo, e in realtà all'interno di questo racconto vengono un po' assorbite tutte quelle che sono le domande, le sensazioni, le impressioni di tutto il gruppo. Anche perché insomma le giornate erano belle intense, e anche i momenti poi di confronto tra di noi sono stati importanti, essenziali, perché poi venisse fuori quella cosa lì. E, in particolare poi dal punto di vista proprio tecnico, in realtà non ci sono, ma mi hanno dato una mano Elio Catania con la parte storica, che appunto lui è quello che fa, e Nicolas invece con gli appunti, che se non c'erano i suoi appunti non cioè, insomma, è stata anche questa una parte molto importante. E quindi no, è una cosa che ci tengo sempre a specificare, perché per me ha fatto molto la differenza, e l'ha fatta anche una volta scritto, nel senso che sia nella lettura successiva che abbiamo fatto, nel senso che poi l'ho condiviso con West Climbing Bank, ma l'abbiamo anche condiviso con appunto con Nagi e con Leilac, e non tanto per controlli o cose, ma proprio per una questione di condivisioni, e anche di, insomma, nel senso, ci sono personaggi che però sono persone, quindi è anche giusto che le persone in qualche modo si sentano un minimo rappresentate, anche se ovviamente c'è il mio sguardo poi a far da intermediario. E in questo senso, soprattutto nelle parti in cui appunto dovevamo riportare la loro voce, quando andavamo a sbobinare tra virgolette gli appunti o a rivedere i balloon, delle cose che ci avevano raccontato, cercavamo il più possibile di stare attenti a non metterci dei filtri nostri, cioè magari c'erano delle parole che non ci convincevano, però erano quelle, e quelle andavano tenute, ecco, cioè no, magari però questo avrebbe più senso, no, in realtà se è stato detto così, è stato detto così. E, ovviamente c'era sempre comunque di mezzo l'inglese, quindi comunque è un, cioè non può che non essere tale, un lavoro con un filtro, con una mediazione, però abbiamo cercato il più possibile di mantenere questa sensibilità, perché come appunto avrete sentito, la cosa più importante poi è ascoltare la voce dei palestinesi e delle palestinesi, e forse in questo periodo di più ci stiamo rendendo conto di quanto invece vengano silenziate, ecco, e ascoltando dalla loro voce direttamente ovviamente è sempre tutto molto, molto chiaro, molto limpido, ecco. Non so, io per ora mi sto prendendo un attimo, magari ci sono delle domande o andiamo a fare un po', non so, perché mi sembra di... Quanto sei rimasta? Siamo rimasti 10 giorni, perché sì, in realtà sono sparsi qua un po' di... di gente del progetto, che tra l'altro se qualcuno vuole aggiungere qualcosa che ho scordato, però sì, in realtà poco, sì. E io per me era la prima volta, infatti nel fumetto in molti casi dico appunto che è la prima volta che sento questa cosa, è la prima volta che vedo quest'altra cosa, e sì. Sì. No, in verità quando siamo stati appunto in Cisgiordania, sì, allora c'è, nel senso che a Leilac c'è un gruppo che si occupa di pittura, Hamed, il ricordo sicuramente, cioè, altri non li ho conosciuti tutti di persona. E tra l'altro ci sono due sue opere all'interno del fumetto. E abbiamo conosciuto anche una pittrice che c'è nel fumetto a Hebron, però appunto i 10 giorni non permettevano poi magari, come dire, un attimo di conoscenza più approfondita. Soprattutto a Hebron, che siamo stati un giorno, e, mentre al ritorno, appunto, quando poi avevo fatto il fumetto, per varie ragioni, così Instagram, social e cose, avevo contattato un altro fumettista palestinese che invece adesso sta a Ramallah, ma è di Jenin, che è Mohamed Sabane, e lui portava il suo fumetto in Italia a settembre, cioè Tracciato Palestina è uscito 2 settimane prima del 7 ottobre, e quindi ci siamo incastrati in quella data lì, appunto poco prima del 7 ottobre, ed è stato molto bello e molto forte, perché lui portava invece, cioè, i titoli, poi vabbè, Racconto Palestina, e ci siamo trovati con questi due titoli ovviamente molto, molto simili, ed è stato molto bello perché in quell'occasione, cioè proprio per la ragione per cui dicevo prima, cioè sentire parlare un palestinese della sua storia è sempre fondamentale e forte, ecco, importante da fare. E quindi è stato veramente molto interessante. E ricordo però una cosa in particolare che aveva detto durante quella presentazione, che aveva detto delle robe molto intense. E magari di fronte al pubblico c'erano delle persone commosse, commosse nel senso che stavano per piangere, e lui gli aveva proprio detto: non, cioè, io racconto queste cose non perché abbiamo bisogno della vostra compassione, ma abbiamo bisogno della vostra rabbia. Quindi mi aveva lasciato molto, cioè, la roba che magari riracconto perché era stato molto bello. Tra l'altro, poi il fumetto. Adesso appunto è in italiano perché prima non era mai stato tradotto lui qua, quindi è un'altra cosa che consiglio, oltre che cioè lui comunque pubblica ogni giorno praticamente vignette su Instagram, perché in realtà nasce come vignettista, poi appunto fa tutta una serie di cose, ecco. Però sì, e poi lui stesso dice che in realtà il fumetto in Palestina arriva poco, cioè lui stesso sente mancanza di questo, cioè di una rete di questa cosa qui in Cisgiordania, perlomeno, parlava più che altro della Cisgiordania, però c'è, cioè, nel senso ci sono autori e autrici, ecco. Sì, lui sta a Ramallah, sì, è tornato lì, sì. E sì, ovviamente non lo cioè questo qui è un'autoproduzione, quindi non si può fare un'autoproduzione in altre lingue. Grazie appunto a Mohamed Saban abbiamo trovato forse, cioè, nel senso che dico forse perché, beh, sì, in realtà è un sì, però vediamo come vanno le cose. Però grazie a lui abbiamo trovato contatti per la traduzione, intanto in arabo, forse in francese, forse, vediamo e speriamo che poi si crei appunto il collegamento, cioè già in realtà dovrebbe esserci, adesso vediamo, tutte, però insomma, esatto, inshallah, però sicuramente c'è questa intenzione, sebbene ovviamente il fumetto non è rivolto a chi si occupa di questa cosa qui da sempre, a chi è esperto della cosa, ma è più rivolto, e neanche ovviamente a palestinesi, cioè nel senso, non, nella mia intenzione, poi è ovvio che è per tutti e per tutte, però la mia intenzione era proprio quella invece di parlare con chi non ne sapeva niente come me, e quindi, cioè nel senso, proprio un'introduzione, ecco, alla cosa, nonché un diario di viaggio. No, non c'è bisogno. Parola. Io posso fare, passare la parola a Christian, se siete, dici che grazie. Grazie Elena, grazie. Ciao, ciao a tutte e tutti, sono Christian Elia, Chicco. E io ho cominciato a occuparmi di Palestina alla fine degli anni 90, sostanzialmente con la tesi, e poi non ho più smesso, non ne sono più uscito. Come diceva Giulia, sono riuscito a tornare giù il 6 novembre, restando fino al 28 più o meno, al 26, perché c'era il libro. Io ho scritto questo libro, il mio secondo libro sulla Palestina. Questo è un libro intervista con Francesca Albanese, che è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, e in realtà noi lo stavamo scrivendo quest'estate, noi avevamo chiuso le bozze il 30 settembre, però poi è successo quello che è successo, ovviamente non è che cambiasse tutta una serie di cose, però a maggior ragione, visto come il dibattito era subito, immediatamente stato impostato dalle voci istituzionali e da quelle dei media mainstream, abbiamo ritenuto necessario agganciarlo ai fatti del 7 ottobre, quindi rivisto tutto. Nel mio libro precedente c'erano già dei temi che poi abbiamo visto, come dire, esplodere, però è oggettivo che dobbiamo tenere presente due piani. Il primo è che tutto quello che noi raccontiamo si lega in un continuum, no, che va fino al 1948, e questo è indiscutibile, non dobbiamo mai dimenticarlo, ogni giorno tutto si tiene in Palestina, tutte le storie delle singole famiglie come gli anelli, no, della catena degli eventi che si è abbattuta su questo popolo. Allo stesso tempo però io da subito ho detto, quando me l'hanno chiesto, che il 7 ottobre si sono unite una serie di tensioni e di dinamiche che hanno creato un po' anche la tempesta perfetta, nel senso che l'ultimo anno prima del 7 ottobre, quindi il 2023, la fine del 2022, degli anni che possiamo immaginare post seconda intifada, è stato un anno terribile per i palestinesi della Cisgiordania, è stato forse l'anno più duro per i palestinesi della Cisgiordania. Voi immaginate che solo a febbraio del 2023, non lo dico io ma lo dice il generale Fuchs, che è il comandante dell'esercito israeliano per la West Bank, in un villaggio che si chiama Huara c'è stato un pogrom, c'è stato un vero e proprio pogrom, quindi masse di coloni che hanno assaltato le case, le famiglie nelle loro case, bruciando un intero villaggio, ed è stato l'episodio più visibile di una pressione, di una violenza, di un livello anche omicidiario, perché siamo arrivati al 7 ottobre con almeno 300 morti in Cisgiordania nel 2023, cifre che non si vedevano da tanti anni. Perché? Perché voi dovete immaginare che c'è un punto di svolta nella storia di Israele, che non è mai stata tenera né rispettosa della memoria, della storia, dei diritti dei palestinesi. Però anche nel peggio si può stare peggio, no? Gli ultimi due anni soprattutto si caratterizzano per un passaggio epocale nella storia di Israele. Per la prima volta il movimento dei coloni arriva al potere. dal 1967, che è l'anno dell'inizio dell'occupazione del territorio che le Nazioni Unite assegnavano al futuro Stato di Palestina, il movimento dei coloni per i governi israeliani è sempre stato un po' l'utile idiota. Voi dovete immaginare una grammatica di potere molto simile a quella dei governi liberali italiani quando pensavano negli anni 20 di usare i fascisti per fermare l'onda rossa e poi no, avrebbero riportato tutto in ordine, poi ci siamo trovati il fascismo 20 anni. Ecco, più o meno in Israele è successa la stessa cosa. Per decenni i governi hanno usato i coloni per quello che è un colonialismo di insediamento, per quello che è un progetto coloniale fin dalla sua nascita, fin da ben prima del 48, era stato già pensato e studiato per essere un progetto di colonialismo di insediamento, e ha portato, usava i coloni, questi messianici, questi fanatici religiosi, a fare il lavoro sporco, quello che la comunità internazionale gli criticava, quello che ogni tanto l'amministrazione americana diceva però così non va bene, e quindi i governi potevano usare il doppio registro, facevano fare ai coloni quello che loro non potevano fare a livello istituzionale, però poi mandavano l'esercito a proteggerli, e i coloni avevano il compito di mettere in sicurezza tutto quello che doveva garantire la visione assoluta di tutti i governi israeliani, cioè sostanzialmente impedire in tutti i modi la nascita di uno Stato palestinese. Come lo fai? Lo fai colonizzando, come è stato fatto, il territorio palestinese, lo fai creando delle strade di collegamento fra una colonia e l'altra, lo fai edificando colonie che ormai sono arrivate a quasi 700.000 persone, per cui parliamo di città, nei punti strategici delle scarse risorse di una terra molto molto non generosa dal punto di vista delle risorse idriche, per esempio. Però allo stesso tempo c'era una sorta di patto sociale per cui i coloni erano fuori dal governo. Voi immaginate che l'attuale ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir, che è diciamo uno dei leader storici del movimento dei coloni, fino al 98 ha subito un processo per istigazione all'odio razziale, per terrorismo, è stato in galera, no? Per cui venivano tenuti ai margini della politica. Benjamin Netanyahu, che pur di non perdere il potere, travolto dagli scandali, dalla corruzione che ne caratterizzano l'operato politico, li ha portati al governo, ha usato loro, cavalcando i più bassi istinti della società israeliana, perché comunque hanno preso un sacco di voti, per governare. Questo ha cambiato completamente, radicalmente certi equilibri. I coloni sono totalmente ingestibili. E soprattutto, al contrario del progetto di colonialismo e insediamento, che è quello che caratterizza Israele fin dalla sua nascita, non ha alcun interesse anche a tenere degli equilibri internazionali, a dover rispondere a certe pressioni, cioè non gli interessa. È lo stesso ministro che può andare in televisione a dire i palestinesi possono essere aiutati con un piano di evacuazione, lo chiama lui, per andare verso altri stati arabi, c'è gente che parla di la pulizia etnica come noi parliamo di una assemblea, no? Gente che definisce i palestinesi animali umani, gente che non si fa problemi a dire che l'utilizzo di un ordigno atomico su Gaza non sarebbe un problema etico. Questa gente ora governa, e lo so, lo dico sempre, me lo sento sempre chiedere. Non è che prima la situazione, certo, però ci può essere anche in una situazione drammatica come quella che vive il popolo palestinese un peggioramento, un deterioramento delle condizioni. Quindi la situazione in Cisgiordania era drammatica. All'interno della società israeliana, la società israeliana vive il suo periodo, io lo chiamo di precollasso, ma non lo chiamo solo io di precollasso, cioè non è mai esistita nella storia di Israele una stagione di queste tensioni politiche. Voi dovete immaginare che fino al 7 ottobre ogni sabato centinaia di migliaia di persone chiedevano le dimissioni di Netanyahu. Purtroppo quella piazza non ha mai avuto la stessa dignità di Nagy di chiedere anche, no, di parlare anche dei palestinesi, come se la questione dell'occupazione non esistesse, ci puoi fare un rave, ci puoi fare una vita normale anche a pochi chilometri dalla più grande prigione a cielo aperto del mondo, senza che questo ti ponga delle domande alla tua coscienza. Però l'idea è quella che Netanyahu, no, è il male, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Quello che però non era mai accaduto è che in quelle manifestazioni hanno preso la parola pubblicamente i massimi vertici dell'esercito israeliano, i massimi vertici dell'intelligence israeliani. Quindi c'è una spaccatura fra i militari e il governo che non è mai esistita. Voi pensate che Ben-Gvir ha creato una milizia parallela di coloni che oggi sono autorizzati a non solo girare armati, perché hanno sempre potuto girare armati, ma sono autorizzati a sparare come fossero un corpo di una milizia, no? Come la milizia fascista durante il fascismo. È lo stesso equilibrio, no? Anche all'epoca c'era ancora l'esercito italiano e i carabinieri, però questo è il punto. Questi equilibri hanno spaccato Israele, che ha un problema enorme all'interno di gestione delle sue anime, perché da un lato è salito al potere quella visione del colonialismo che ha una visione messianica, che fa sostanzialmente origine in questo predicatore che si chiamava Jabotinsky, che mentre il sionismo nasce con l'idea che gli ebrei dovevano avere uno Stato-nazione che li proteggesse quando sarebbero crollati gli imperi dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo Stato poteva essere in Uganda, in California, in Madagascar, ci sono proprio gli atti dei congressi sionisti, no? Che avevano come obiettivo la sicurezza. Perché venivano dall'Olocausto, il sionismo nasce prima dell'Olocausto, ma venivano dai pogrom, venivano dalle persecuzioni che subivano in gran parte d'Europa, nell'impero zarista, tranne nell'impero ottomano paradossalmente, perché poi la vita è stronza. C'era un altro tipo di sionismo, quello che viene chiamato sionismo revisionista, per cui l'idea era che Israele non poteva essere in nessun altro posto nel mondo che non fosse lì. Perché? Perché 2000 anni fa il popolo eletto era lì, perché quella è la terra che la Bibbia dice che loro, e per cui questa visione dal 48 agli anni 70 viene messa sostanzialmente da parte. Cioè, chi governa Israele fino agli anni 70, chi fonda Israele, è questa elite schenazita, quindi di origine dell'Europa dell'Est, bianca, che ha questa visione che lo so che fa inorridire molti, però bisogna conoscere tutto quando ci si occupa di una questione. Aveva anche un afflato socialista dell'edificazione dello Stato dei coloni lavoratori, no? Che avrebbe comunque in qualche modo gestito la popolazione araba, coinvolgendola alla lunga in un'idea di sviluppo che avevano i kibbutzim, no? Era questa la mentalità che c'era. Questo cambia completamente alla fine degli anni 60 con l'occupazione militare, e questa visione messianica piano piano prende il sopravvento, e soprattutto lo prende rispetto a quella generazione precedente che viene accusata, no? di non essere andata fino in fondo. Io sorrido quando sento oggi i commenti inorriditi di Netanyahu che dice non ci sarà uno Stato. Netanyahu lo dice dal 95 che non ci sarà uno Stato palestinese, e a lui va riconosciuta coerenza, perché ha sempre fatto tutto quello che ha potuto perché non ci fosse uno Stato palestinese. Quindi l'idea che quando si dice non c'è una leadership palestinese affidabile con la quale fare dei colloqui di pace, a me sembra sempre un assurdo, perché noi stiamo parlando invece di un primo ministro che dal 95 ad oggi, quindi quasi con una forma di regime autoritario e al potere, e che dice chiaramente che non ci sarà uno Stato palestinese, invece lui è un partner affidabile. Però sono i misteri della comunicazione. La situazione che ho trovato mi ha colpito molto, nonostante l'abitudine. Io mancavo da non tanto, avevo fatto un reportage nell'estate 22 sulla gentrificazione di Gerusalemme Est, perché ovviamente, come sempre, sotto il livello dei coloni poi si muovono interessi ben più massicci, no? Per cui Sheikh Jarrah è uno degli ennesimi quartieri arabi di Gerusalemme Est che subisce una aggressione costante, una cacciata di famiglie, una violenza pazzesca. Ma Sheikh Jarrah è già un posto dove un metro quadro viene rivenduto in futuro a 10.000 euro al metro quadro, no? Perché Gerusalemme in questo momento è uno dei più grandi business edilizi del mondo, sostanzialmente, per tutta una serie di valori messianici, no? Che la diaspora ebraica punta su Israele. Quindi quello che mi ha colpito e sono rimasto veramente toccato alle parole di Nagy, perché è un po' il tema a cui abbiamo dedicato il mio libro precedente con Cecilia Dalla Negra sulla Palestina, quello che era per l'anniversario del 67. E lo ha spiegato molto meglio di me. Esisteva a un certo punto in Cisgiordania una classe media palestinese stanca di guerra, che aveva accettato una sorta di pax economica con l'occupazione. Chi resisteva in Cisgiordania erano i campi profughi. Erano i ragazzi dei campi profughi che erano tagliati fuori da tutto, che erano dimenticati a questo punto anche da quel sogno della resistenza che teneva uniti, no? Strati sociali e generazioni diverse, per cui questo fenomeno si vedeva, e in questo conflitto si è visto ancora di più, perché Gaza è lontana, purtroppo di 17 anni senza avere possibilità di avere dei collegamenti umani incidono, segnano una profonda distanza, purtroppo, e soprattutto c'è il cappello marcio e corrotto dell'autorità nazionale palestinese, che ormai è un agente dell'occupazione, sostanzialmente collabora. L'unico motivo per cui resta in piedi l'ANP è la sua collaborazione con Israele. In Cisgiordania la chiamano la politica delle porte girevoli, quindi prima ti ferma l'ANP per un post su Facebook, ti rilascia, e quindi Israele è stato avvisato e ti viene a prendere, no? Cioè ormai è un sistema che si auto alimenta, e quindi non possono manifestare, sia per tutta la situazione di blocchi che raccontavano, sia anche perché l'ANP praticamente non permette di manifestare, e i campi sono sempre più soli, sono sempre più lasciati al massacro delle forze israeliane. Quello che sta cercando di fare Israele in Cisgiordania è quello che sta cercando di fare anche al nord con Hezbollah, sta cercando in tutti i modi di allargare il conflitto, perché Israele in questo momento si nutre di questo conflitto. Israele non ha nessuna strategia reale su Gaza, ma sa benissimo che nel giorno in cui questa fase acuta di combattimenti calasse, arriverà la resa dei conti fra esercito e governo sul 7 ottobre. Ve lo spiego anche, perché Israele a questo punto è davvero davanti a un momento di non ritorno. Io lavoro con un collettivo di giornalisti investigativi che si chiama IRPI, e noi già stavamo lavorando con dei colleghi israeliani sulla nuova definizione di antisemitismo. La nuova definizione di antisemitismo, per chi non lo sa, è sostanzialmente nata da questa board che si chiama International Holocaust Alliance Remembrance, che nasce con le migliori intenzioni, nasce negli anni 80 con l'idea che man mano che tutti i testimoni diretti dell'Olocausto fossero scomparsi, bisognava, no, farsi custodi della memoria dell'Olocausto. Viene immediatamente infiltrata dalle autorità israeliane, che ne mutano assolutamente il senso, e dopo anni di lavori viene prodotta questa nuova definizione di antisemitismo, che è più o meno del 2016-2017, e contro chi viene usata questa definizione di antisemitismo? Contro tutti quelli che si oppongono alle politiche israeliane. Per cui paradossalmente io ho dovuto rispondere di accuse di antisemitismo, ma chi va ad Acca Larenzia può andare al memoriale della Shoah con Liliana Segre, no? Ed è incredibile il cortocircuito, però è questo che ci sta capitando. Noi abbiamo scelto volutamente il titolo del libro, io e Francesca Jacques, proprio perché il vero Jacques era quello che smascherava l'antisemitismo nascosto dietro il caso Dreyfus. Noi oggi sappiamo sulla nostra pelle, anche a livello legale, che l'antisemitismo è la chiave con cui silenziano qualunque forma di dissenso, che vada dal BDS alla semplice critica. Voi immaginate che c'è un rapporto di un organismo che si chiama BRISM, che è come se fosse un coordinamento di facoltà che si occupano di Medio Oriente, di docenti, di ricercatori in UK, in Gran Bretagna. Noi siamo già 300 cause legali per gente che viene denunciata a lezione perché fa una lezione sulla Palestina, per gente che perde il posto di lavoro, perché è vero che la definizione non ha valore legale, ma qualunque azienda la può recepire, e per cui c'è questo centro che è ad Amsterdam, che si chiama European Legal Support Center, che difende queste persone che per un post lavorano alla Vodafone, fanno un retweet su Stop Bombing Gaza e vengono licenziati per antisemitismo. I casi sono decine, Sono decine. In Italia ancora ci sono pochissimi casi, ma all'estero, soprattutto in Germania, in Francia e in Inghilterra, sta diventando veramente una marea. E noi stavamo già lavorando con i colleghi israeliani alla mappatura dei reali antisemiti, che invece oggi fanno parte di lobby pro-Israele per un meccanismo assolutamente perverso che ruota intorno all'islamofobia e al razzismo anti-arabo sostanzialmente. E quando è successo il 7 ottobre abbiamo continuato a collaborare, perché loro ci hanno chiesto una parte di ricerca rispetto al coinvolgimento di Leonardo, che non c'è bisogno che vi spieghi chi è. Quello che mi hanno spiegato, l'alba del 7 ottobre, e chiudo, Israele ha 34 divisioni in servizio permanente effettivo. Di queste 34 divisioni, 32 divisioni dove erano? In Cisgiordania. In Cisgiordania, a inseguire ragazzi che tirano sassi, a umiliare le famiglie, a difendere i coloni sostanzialmente. Questo ha portato a galla la più grande contraddizione che Israele sta vivendo. Israele si è ammalato di occupazione, sta morendo di occupazione e soprattutto sta esplodendo, perché la resa dei conti fra l'esercito e il governo è ormai sotto gli occhi di tutti, e tutti i fatti che sono successi il 7 ottobre sono ancora completamente inspiegabili. Ormai è appurato e documentato che l'azione dei miliziani di Hamas considerava di svolgere una operazione di martirio, sostanzialmente, un'operazione di suicida di massa, arrivando al fence, combattendo fino alla morte. Tutte le registrazioni dei miliziani di Hamas dimostrano come si sono trovati in una situazione per cui nessuno li fermava. Se voi avete in mente, anche solo come un'immagine, la mappa di Israele, alcuni gruppi sono arrivati a Sderot, sono arrivati ad Ashkelon, sono arrivati a Beersheba. Noi abbiamo rifatto quella strada dal fence fino ai kibbutz, fino alle città, 30 volte. Tu cammini per chilometri allo scoperto, è impossibile che l'esercito non sia in qualche modo intervenuto. Io ho intervistato due superstiti del kibbutz di Beri, che hanno denunciato il governo israeliano perché le truppe israeliane non entravano nel kibbutz. Quello che è successo, che non va negato, sono successi degli episodi che sicuramente rappresentano un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità da parte di alcune azioni militari, sono anche successe perché poi ovviamente dietro queste 2000 persone sono uscite centinaia di altre persone che hanno trovato questa breccia. C'è chi si è rubato un condizionatore, c'è chi ha commesso degli atti. Hamas aveva già cominciato anche a far dei processi rispetto a chi si era macchiato di certi crimini. Quindi anche quello che sappiamo sul 7 ottobre è ancora tutto da capire, ma in questo momento Israele ha tutto l'interesse a non arrivare a quella commissione d'inchiesta, a non arrivare, perché rischia davvero di esplodere. E ci siamo, e c'è gente molto più autorevole di me, che è israeliana, che aveva detto che Israele sarebbe morta di occupazione. Vedremo cosa succede. Quello che Nagy ha spiegato benissimo, loro di noi non sanno cosa fare, perché sanno che noi saremo sempre qua. E questo è il senso della Palestina. E chiudo. Quello che insegna a tutti noi è, da un lato analitico, è che il 7 ottobre dimostra come Israele militarmente non uscirà mai da questa storia, e purtroppo sulla pelle dei palestinesi, ma non ne uscirà mai, non potrà mai sentirsi al sicuro in un'ottica di oppressione. Nessuno può vivere al sicuro opprimendo qualcun altro, prima o poi lo paghi. E dall'altro punto di vista abbiamo avuto invece la notizia bella, che tutte le piazze strapiene per la questione palestinese dimostrano come quello che poi tanti di noi hanno visto e raccontano. Alla fine si parla della Palestina perché parliamo di noi stessi. Io ricordo la criminalizzazione degli ONG quando la raccontavo nelle corti israeliane, no? Mi sembrava che era un fenomeno che non avrei mai vissuto. Io ricordo ancora i compagni del Notav processati per terrorismo per aver distrutto un compressore, non so chi di voi lo ricorda. Bene, quella era una parte di un sistema del processo di accusa preso dai processi israeliani, no? E per cui io dico sempre a tutti, continuo a dirlo anche negli anni in cui nessuno parlava più di Palestina, che in realtà parlare dei palestinesi significa parlare di noi, perché loro si sanno difendere benissimo da soli. Grazie. No, volevo ringraziare Chiccolia perché in anche brevissimo tempo hai dato una quantità di informazioni e anche dette in una maniera estremamente comprensibile e molto, molto bello. E, volevo chiedere se qualcuno avesse qualche domanda da fare, perché sfruttare anche l'occasione di avere Chicco insieme a noi ultimamente è ovunque, non so se voi l'avete visto, ma lo chiamano molto spesso, quindi è molto speciale averlo qua a ZAM. E, poi non so adesso cosa è successo, abbiamo perso Naji e Mahmood, magari però qualcuno aveva qualche domanda da fare, ma certo. Ciao, senti, volevo farti questa domanda. Visto l'analisi storica che hai fatto, che è sicuramente molto interessante, come siamo passati dall'OLP ad Hamas? Cioè, come cavolo... Perché c'è, a me personalmente è passata davanti agli occhi, però poi avere un'analisi più lucida... mi piacerebbe avere. Allora, guarda, io continuo a dire, noi scegliemmo per fare il primo libro il 67 come anniversario e non il 48 che poteva essere legittimamente, no? altrettanto enorme, per due fattori. Il movimento dei coloni, proprio perché nasce nel 67 rispetto a Israele, e l'Islam politico, l'irruzione dell'Islam politico. La guerra dei sei giorni, quindi il 67, segna... Il colpo di grazia per i palestinesi nell'idea che sarebbe stata un po' la fratellanza araba a salvarli, no? Per cui diciamo anche la resistenza armata palestinese era, si pensava in maniera panaraba, no? Più che come questione nazionale. Il 67 rompe per sempre questo equilibrio e poi c'è il fallimento del 73, dello Yom Kippur, per cui per l'ultima volta l'Egitto e la Siria provano un'azione militare e perdono. A quel punto i palestinesi capiscono che devono prendere in mano da soli il proprio destino e per cui ovviamente l'OLP, appunto, cioè l'organizzazione ombrello di tutte le varie anime della resistenza palestinese, prende un ruolo di primo piano. Arafat, no, e comincia quella stagione. Israele capisce subito che questo è un problema. All'interno dei circoli di intelligence c'è un documentario molto bello, si chiama Gatekeepers, che sono le interviste a sei capi del Mossad degli anni, no? E uno di questi lo spiega molto bene, dice: per noi Hamas era l'attore ideale, perché non contava niente. Nella società più laica del mondo arabo, a noi interessava creare un problema ad Arafat. Quindi cominciano a finanziare questo piccolo gruppo che si lascia amabilmente finanziare per anni, ovviamente, cresce, fino a che diventa capo di Hamas lo sceicco Yassin, non so chi di voi lo ricorda, lo sceicco in carrozzina, cieco. Lui è il primo che rompe un equilibrio e posiziona Hamas su posizioni di resistenza all'oltranza, e lo fa sfruttando ovviamente un momento politico, quello più debole di Arafat, perché è ovvio che firmare gli accordi di Oslo è stata la sua condanna a morte, non solo sua ma anche del popolo palestinese, no? A quel punto lui capisce che c'è un'opportunità politica per prendere fra virgolette il potere, no? la leadership all'interno, e per cui rompe questo equilibrio con Israele, e da allora diventa un nemico di Israele. Lui viene ammazzato con un razzo teleguidato e così via. Cosa fa veramente crescere Hamas? La corruzione dell'ANP, perché è ovvio che Hamas riesce a presentarsi per anni con questa animo dell'organizzazione dei puri, dell'organizzazione, no, delle persone non corruttibili e così via. Ma l'altro punto di rottura fondamentale è il 2006. Quando si tengono quelle che, se ancora oggi digitate su Google e trovate il report del Parlamento europeo, vengono definite le elezioni più libere del Medio Oriente. Le vince Hamas, le vince col 43% dei voti. L'ANP cosa fa? Scappa dietro a Israele e all'Unione Europea, capendo che sta perdendo il potere, e per cui aiuta loro a non riconoscere il risultato elettorale, e quindi quello che sapete, guerra civile. perché con gli accordi di Oslo, cioè tu pensa, la seconda intifada, quando comincia la seconda intifada, è la rivolta di una generazione intera rispetto a Oslo, rispetto all'idea di dire Oslo è un inganno, Oslo non sta cambiando nulla nelle nostre vite, Oslo è pieno di promesse false, come è vero, che era, no? Poi è ovvio che Arafat, come tutti i politici, cercò di portare a casa il massimo che poteva, no? Però è ovvio che Oslo era quella cartina di tornasole per cui l'opinione pubblica diceva c'è un accordo di pace, ma in realtà per i palestinesi aveva portato a casa veramente molto poco, perché poi tutte le varie zone che sarebbero dovute essere a completo controllo palestinese non lo sono mai state. Tu dici che hai l'autorità su un territorio di cui non controlli le tasse, le dogane, la sicurezza, cioè non so se mi spiego, no? Per cui era già in caduta libera la considerazione del... anche perché poi l'OLP era già diventato ANP, no? È già questo passaggio, quindi quando si istituzionalizza qualcosa perde sempre un po' di potere. Hamas a quel punto prende il potere e cos'è successo? Anche Hamas è cambiato tanto. Io ricordo di aver intervistato quasi tutti i ministri del primo governo Hamas, c'era dentro gente che era la corrente riformista di Hamas, quella che diceva governeremo vincendo le elezioni. Quando non gli hai riconosciuto quella vittoria, è ovvio che l'ala militarista sempre più ha potuto dimostrare non otterremo mai niente, e si è arrivati fino a una gestione che per certi versi a Gaza, tanti amici Gazawi ve lo potranno dire, Hamas si comporta un po' come una sorta anche di mafia locale, no? Per cui c'è un dominio totale della vita pubblica Gazawi. Io ho fatto un lavoro quando sono stato giù sugli operai di Gaza che sono rimasti bloccati in Cisgiordania. E comunque queste persone che hanno visto la loro vita, la loro casa distrutte in due notti, era gente che per andare a lavorare fuori comunque pagava Hamas, cioè è ovvio che anche all'interno della società palestinese ci sono tanti problemi, perché l'occupazione è un cancro per tutti, no? Hamas è cambiata tanto, ma questa transizione è avvenuta intorno a questi due punti, quindi prima l'idea di essere finanziati, poi l'idea di diventare l'alternativa ai fallimenti di Oslo, quindi fare un incasso politico, no, del fallimento di Oslo, e poi al momento in cui questa forza si stava assolutamente istituzionalizzando, vincendo le elezioni e preparandosi a governare, dichiarata organizzazione terrorista, blocco su Gaza, ed è ovvio che quando tu chiudi 2,5 milioni di persone in una gabbia, cosa ti aspetti che possa, no? cosa ti aspetti che possa succedere? Beh, ma tu hai ragione dal punto di vista, come sempre succede, di un shock nazionale, no? Quello sì. Però la differenza di visione strategica è totale. C'è un libro, per chi legge l'inglese si può scaricare, di un professore di geografia dell'Università di Haifa, molto bravo, un geografo, che ha scritto questo libro che si chiama Netanyahu e i generali, che già spiega come queste tensioni siano pazzesche. E nascono anche da primo, ovviamente, il 7 ottobre. Primo, come ti dicevo, l'idea strategica che la difesa dei coloni stia drenando praticamente completamente le risorse dell'esercito. Secondo punto, non lo dico io, lo dicono i veterani di Breaking the Silence, che è un'associazione di ex militari dei corpi d'élite israeliani che si sono, dopo quello che hanno fatto, si sono rifiutati di continuare a servire e hanno creato questa associazione che denuncia quello che fanno ai palestinesi. Loro stessi spiegano come a un certo punto non hanno più neanche quella capacità anche militare di affrontare 2,000 miliziani di Hamas in campo aperto. Perché? Perché se tu passi gli ultimi anni a immaginare di poter informatizzare tutto il controllo di massa dei palestinesi, non hai più la capacità di saper gestire una guerra tradizionale per certi versi. E infatti la follia del governo di Netanyahu di cercare in tutti i modi di provocare Hezbollah terrorizza i militari israeliani, perché in questo momento Hezbollah non è Hamas, è molto più pericolosa di Hamas, è molto più organizzata di Hamas, cioè sarebbe un disastro vero per Israele. Terzo punto, nel 2018, quando non erano ancora al potere ma cominciavano a diventare una realtà importante in Parlamento, Israele non ha una Costituzione, perché una Costituzione avrebbe obbligato Israele a dover definire dei confini nazionali, per cui non hanno mai votato una Costituzione. Hanno una serie di leggi che vengono chiamate fondamentali, che hanno valore costituzionale. Nel 2018 viene votata questa legge che definisce Israele il paese degli ebrei. Non era mai accaduto. Questo significa per i militari una tragedia, perché significa tagliare fuori i drusi, che come sempre accade in tutti gli stati del mondo, i ceti più poveri sono il grande bacino dei militari, per cui tu capisci che se un'identità nazionale già, che non esiste, non lo dico io perché se avete letto l'invenzione di Israele è qualcosa che ha a che fare, no, con dei processi sociologici, identitari che non esistono, perché ovviamente tu devi mettere nella stessa idea di nazione un lituano e uno di Brooklyn, non so come dire, no? Per cui si basa tutto su uno storytelling, no? Su una narrazione, e tu all'improvviso a quello che è la quinta colonna dell'esercito israeliano, che sono i drusi, gli dici che non sono veri israeliani, no? Cioè, per i militari è stato un danno pazzesco. E per cui questa tensione ormai era evidente già da tempo. È ovvio che di fronte a quello che è successo il 7 ottobre, come giustamente dici tu, è normale che c'è un... No, un ma il conflitto resta latente, sia per la visione completamente diversa. Questo governo è prontissimo a rioccupare Gaza. Nel 2005 Sharon ordinò il ritiro unilaterale dei coloni da Gaza perché non era strategica per i militari, e Sharon ragionava da militare, no? Allo stesso tempo arriverà il momento, con una commissione d'inchiesta, con quello che sarà, in cui bisognerà capire di chi è la responsabilità del 7 ottobre, del governo o dei militari. E questa roba sarà uno scontro all'ultimo sangue, quindi la guerra, fra le varie cose, serve anche per rimandare questo momento in politica interna, perché sarà una resa dei conti e sarà pesante. Non so se ho risposto alla tua domanda, però. Non so se serve il microfono, però oddio. Vabbè, io la percezione che ho, che però è assolutamente falsata ovviamente alle mie bolle, di quello che viene trasmesso nei media israeliani, è comunque una narrazione che sostiene la guerra in toto. Sono state anche sdoganate tutta una serie di cose che prima comunque non potevano essere dette così pubblicamente. Nella tua percezione, da un lato la società civile israeliana, per quanto hai accesso, non lo so, come sta reagendo a questa cosa, e con pagine politiche di sinistra in Israele è complesso, però insomma comunque spostate magari verso un pensiero, non dico antisionista, però un po' più a sinistra, come stanno reagendo, come riescono ad occupare anche lo spazio politico e pubblico? Allora, in questo momento l'opposizione civile è rappresentata solo e soltanto dagli arabi israeliani. Gli arabi israeliani, come sapete, sono palestinesi del 48 che hanno deciso di restare in quello che sarebbe diventato Israele, con l'idea che in un processo lungo sarebbero comunque stati dei cittadini con pari dignità. All'interno della comunità araba israeliana qualcosa si è rotto per sempre, no? Ed è molto interessante quando diciamo che Israele sta scoppiando, perché parliamo quasi al 22% della popolazione, quindi non parliamo di poche persone. Quando si è rotto? Si è rotto sostanzialmente nel 2021-2022, quando per la prima volta, rispetto ai bombardamenti a Gaza, perché ovviamente qui c'è gente che è sensibile, però non c'era stato nessun 7 ottobre prima di Piombo Fuso del 2014, del 2012, del 2018, del 2022, per la prima volta le comunità arabe israeliane sono esplose, hanno forse messo in campo delle proteste più massicce di quella della Cisgiordania, per certi versi, no? Proprio per quella torpore che raccontava anche Nagy in Cisgiordania. Adesso questo scontro è diventato palese. Tre ministri dell'attuale governo hanno detto che sostanzialmente bisogna riconsiderare la cittadinanza degli arabi israeliani, no? Arrivando anche a immaginare l'espulsione. E l'ultima generazione, quella giovane, non solo è in totale rottura con questa identità israeliana che non sente minimamente più, ma soprattutto è drammatico vivere con loro, perché c'è anche una spaccatura generazionale, cioè loro accusano i loro genitori e i loro nonni di aver fatto una scelta per loro, rendendoli stranieri per sempre in una patria che non li avrebbe mai riconosciuti e che massacra i loro fratelli. No, guarda che questo è un cortocircuito sociologico pazzesco, perché stai parlando del 20% della popolazione. La legge del 2018 è stata l'ultimo chiodo sulla bara, no? Perché se Israele è solo lo Stato degli ebrei, oltre i drusi, no? Per cui la situazione, loro sono la vera anima della protesta, appoggiati diciamo da qualche sparuto, bisogna dire, movimento di giovani sostanzialmente. Standing Together per esempio è una rete che cerca in qualche modo, su posizioni devo dire molto buoniste, molto no, possiamo mangiare il falafel insieme, però qualcosa fa in una società completamente ammalata di disumanizzazione. La sinistra storica in Israele completamente svanita, aveva fatto un accordo con le liste arabe per le elezioni, sono riusciti a non mettersi d'accordo, per cui non hanno superato lo sbarco, cioè è proprio un suicidio ormai evidente, e soprattutto l'età media, cioè tu quando noi citiamo e facciamo bene a farlo, Michel Warshavsky, Nurit Peled, però hanno 80 anni, cioè no, è un problema, vuol dire che non esiste un ricambio generazionale in voci israeliane contro l'occupazione. L'unico punto su cui non sono d'accordo è la stampa, perché secondo me, io sarà che ho il metro della stampa da cui vengo io, e il dibattito in Israele è estremamente più vario che quello da noi, cioè in Israele non si fa problema di... Arez ti pubblica il delirio di Ben-Gvir, ma ti pubblica anche quello che dice Ben-Gvir deve stare in galera, non so come dire, no? Per cui per certi versi, quello che vi consiglio, perché secondo me non si può ignorare la società civile israeliana, bisogna guardarla, 972 è per esempio un giornale molto bello, fondato da un arabo israeliano e dal suo compagno che è israeliano, un giornale bellissimo. Local Calls, un giornale di inchieste in Israele molto molto bello, sono i primi che hanno fatto l'inchiesta che ha dimostrato che non c'era nessun bambino decapitato, no? Per esempio, ed ovviamente erano i primi ad avere accesso agli obitori e alle autopsie, no? Ci hanno passato loro tutti i documenti per dire una bufala quella dei bambini decapitati. Quindi invece sulla stampa ti dico, e il problema è che le voci non hanno bisogno della stampa, perché quei ministri ormai vanno sulla BBC a dire che a Gaza ci sono animali umani, e la BBC glielo fa dire tanto quanto Arez, non so, no? Cioè... quello è un disastro, come cioè voi per capire come un palestinese giovane, neanche più tanto giovane ormai, vede un israeliano vede un palestinese, io dico ancora sempre a tutti, leggete Nurit Peled. Nurit Peled è una pedagoga israeliana che ha scritto questo libro su come vengono rappresentati i palestinesi nei libri di testo israeliani. È da pelle d'oca la disumanizzazione, la veramente, cioè manco nelle pubblicazioni coloniali dell'Italia, della Somalia fascista, no? Cioè una cosa agghiacciante. E per dirti, quel tipo di persone, Nurit Peled ha perso una figlia in un attentato suicida in una libreria di Gerusalemme, eppure no, avevano lo spessore morale per dire, quando Netanyahu si presentò al funerale di sua figlia, lei lo cacciò, no? Cioè, quelle voci, ahimè, bisogna dirlo, sono sempre meno, perché il 90% dei palestinesi vede degli israeliani vede un palestinese durante il servizio militare, bene che vada, no? Prima c'era una totale diversa mescolanza di esperienze, di vite comuni. E chiudo, la Valle di Latrun. La Valle di Latrun è la valle che collega Tel Aviv a Gerusalemme. In quella valle, nel 67, tre villaggi palestinesi vennero rasi al suolo in una notte. Se tu sei con un israeliano vecchio sa riconoscere, questo era il forno della casa, questi erano i fichi d'India che delimitavano il dunam della casa palestinese, perché comunque ne aveva una memoria personale. Il dramma è che noi fermammo quel giorno quasi 50 persone, non sapevano neanche che c'era. Non è solo fare una scelta di razzismo, di colonialismo, perché sai dove vivi, su questo non ci piove, sai dove vivi e accetti di viverci, no? Però capisci che non avere neanche conoscenza di cosa è stato, del dolore degli altri, ha tirato su una generazione complicata, e oggi la sinistra in Israele veramente non esiste, è a parte proprio a livello partitico, come movimenti, pochissima roba, che vive in una bolla, e che peraltro, se me lo chiedi, parlo anche di tanti amici, ha reagito come non avrei, come non mi sarei neanche immaginato al 7 ottobre, cioè in maniera completamente ottusa, aggressiva, deludendomi due volte, no? Perché proprio nei momenti di crisi in cui se senti davvero dei principi li devi difendere, no? E invece purtroppo tanta gente ho sentito degli interventi veramente che non mi sarei mai aspettato, insomma. Però qualcosa c'è in questo momento, oggettivamente la vera reazione è contro Netanyahu, che però è diverso, perché essere contro Netanyahu non significa avere chiara l'idea dell'occupazione, non so come dire, no? Quello è fortissimo, però è già qualcosa, quello è fortissimo, e poi gli arabi israeliani. La vera anima della protesta in Israele sono gli arabi israeliani. In realtà quello che tu hai detto ha tagliato un po' le gambe alla mia domanda, nel senso che io ti avrei voluto chiedere qual è la tattica, la strategia di Hamas, qual è stata, in visione del futuro voglio dire, la tattica e la strategia di Hamas nel 7 ottobre. Tu mi hai detto Hamas non pensava di uscire, di fare quello che ha fatto, per cui adesso non così in maniera così eclatante, per cui adesso Gaza, Hamas non era preparata a questo attacco israeliano, per cui sono solo lì a difendersi, ad aspettare, cioè non erano preparati, appunto, sono solo lì ad aspettare. Non c'è una tattica, una speranza, una cosa che dici, boh, nel futuro però questa roba l'abbiamo fatta perché girasse in questo modo, se in realtà loro non pensavano neanche di farla, quella roba lì, per cui non c'è speranza? Allora, questa è una bellissima domanda. Secondo me, ovviamente ti do il mio parere, però sono tanti documenti su questo, gli è un po' esplosa fra le mani, in queste dimensioni. Perché? Non erano pochi rumors che arrivavano dalla striscia dove la tensione, l'insoddisfazione della popolazione locale era molto crescente. Hamas faceva sempre più fatica a garantire anche il minimo, no? In una zona del mondo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava non adatta alla vita umana già 3 anni fa, no? Quindi Hamas aveva bisogno di un'azione eclatante anche per un minimo di metterci dentro prestigio, mettere pressione, accreditarsi un po' agli occhi dell'Iran, che ora è l'unico stato che insieme al Qatar gli dà 2 soldi, per cui comunque no, far vedere che sono che erano ancora vivi, che erano ancora un elemento su cui in un gioco della regione poteva contare, no? E poi è successo qualcosa molto più grande di loro, quindi anche questo genocidio in atto a Gaza. Io sono abbastanza convinto che non l'avessero messo in conto fino in fondo. Poi, rispetto invece all'aspetto pratico, le teste pensanti, i veri capi di Hamas, non sono mica Gaza sotto le bombe, eh? Sono ben al riparo in Qatar e altrove. Siwar è l'unico comandante di campo e Siwar era fino a qualche anno fa un personaggio abbastanza di serie B, cioè non era un personaggio principale, è un comandante militare, lui sì, è lì. Ma gli altri sono tutti fuori. Questo per dirti, per decapitare l'organizzazione non è questa guerra che può cambiare qualcosa, perché la leadership c'è sempre, ci sarà sempre, dipende da come si potrà ricollocare sul mercato internazionale. Ed è ovvio che a Teheran, che se ne sia detto all'inizio, ma ormai per fortuna è evidente, non siano stati contenti, no, della pressione che gli sia stata messa addosso, per ovvi motivi, perché io posso anche fare delle dichiarazioni pubbliche in cui dico i partigiani palestinesi hanno fatto quello che andava fatto per l'occupazione, però in realtà poi c'è la politica, che è un'altra cosa, e per cui in queste dimensioni l'Iran se la sarebbe risparmiata volentieri in questo momento, no? Per cui rischia un isolamento importante, anche perché immagina per come funzionano gli equilibri internazionali, avevano dichiarato Hamas un'organizzazione terroristica quando vinceva le elezioni democraticamente, figurati mo'. Quindi bisognerà un processo politico che emani una nuova leadership che possa gestire Gaza. Di sicuro due aspetti sono assurdi. Dire che l'ANP prende il controllo di Gaza, perché è incredibile, perché non riesce ad avere autorità sulla Palestina, sulla Cisgiordania, figurati su Gaza. E la cosa ancora più incredibile che ho letto, Israele ha ritirato fuori questo vecchio schema del 78 che prevedeva i comitati locali, cioè la comunità elegge uno che Israele dice questo mi va bene come tu rappresenti, cioè incredibile, no? Proprio veramente la mentalità del colonizzatore. Io ti dico, la mia sensazione è che in questo momento governo israeliano, comunità internazionale, Iran, Hamas, nessuno sa che cazzo fare, come uscire da questa situazione. È veramente una situazione molto pericolosa, perché quando è così può succedere di tutto, no? E hai anche questi attori totalmente imprevisti come gli Houthi dallo Yemen, no? Cioè la situazione è veramente liquida, e quando è così liquida è un casino, perché io credo che nessuno abbia una strategia chiara. Per me Hamas voleva l'operazione simbolica, di cui comunque si sarebbe parlato, no? Importante, che le ridasse un po' di prestigio, di verve. Non si aspettava che questa roba, e non sa come gestirla, come non lo sa come gestire Israele, perché Israele non ha un piano, Israele non ce l'ha, sta continuando a massacrare civili perché non sa come uscire da questa situazione, non sa che farsene di Gaza. Cioè alla fine il punto è quello, no? Se non, questo sì, invece dobbiamo dirlo, abbiamo informazioni che in Sinai stanno costruendo qualcosa di che non ha l'aria di un campo profughi temporaneo. Ecco, questo sì, questa è la sensazione che abbiamo. Ci sono questi colleghi di questa rete di giornalisti internazionali, si chiama Mada Masra in Egitto, che non si sa neanche come facciano a resistere, li arrestano di 2x3 al Sisi. Mada Masra ha fatto questo report in cui sta dimostrando come il governo egiziano sta spostando masse di operai verso il Sinai, e questa non è una buona notizia per i palestinesi, anche perché parliamo della solita solidarietà araba. Ha una famiglia palestinese, per essere messa nell'elenco di Rafah per uscire in Egitto vengono chiesti $9,000, no? Questo è l'Egitto di Al-Sisi, ricordiamocelo sempre tutti, da Regeni in poi. No, solo due secondi. No, volevo salutare Naji e Mahmoud, perché in effetti ascoltarci solo in italiano deve essere un pochettino pesante. Naji, Mahmoud, sorry for the Italian. I would like to thank you and say goodbye. Thank you for your words, your story, and Mahmoud maybe. Yeah, okay. And sorry for the Italian. Maybe I will translate tomorrow for you everything. Okay. Thank you so much. I hope it's very beautiful to see you and speak with you. I hope to see you very, very, very soon. Me too. You very soon. Bye. Thank you so much. Thank you. I so like much. Your belief. And your yes, Naji. Italy, I got some word and I got some sentences. No, you didn't hear me. Okay. You said that. Thank you. Bye bye. Ciao. Okay. Ciao. Talk tomorrow. Bye. Ciao. Ciao. Ciao. Shukran kthir. Cioè si regge. No, perché non mi vedete, ok, no, mi vorrei capire cosa intendi con Israele non sa che farsene, perché di questa operazione militare, perché cioè che l'obiettivo finale di Israele sia, appunto, come dicevi anche prima, la pulizia etnica, il riappropriarsi anche della frase da mare a mare, from the river to the sea. Cioè, se è il loro obiettivo è abbastanza evidente, no? E quindi questo diventa un pretesto abbastanza chiaro per riuscire finalmente a ottenere almeno la pulizia etnica di Gaza, quindi l'espulsione, e utilizzare lo stesso modello che hanno utilizzato nel 48, cioè è un modello paro paro, no? Cioè arrivo da nord, ti spingo verso sud, ti spingo verso il confine, e appunto in Sinai dici no, stanno costruendo il campo profughi. Quindi mi colpisce questa cosa, perché da me, io lo osservo e dico vabbè, è ovvio quello che stanno facendo, era evidente 8 anni fa che l'avrebbero fatto, e quindi mi interessa capire. Allora, di base, Gaza non è strategica, perché anche se tu arrivi a quello che ormai sembra abbastanza l'unico punto più o meno di contatto fra le varie anime, fra le varie visioni israeliane a livello di deep state, no? Cioè quello economico, quello militare, quello politico, perché Israele è uno stato complesso, no? Sui giacimenti secondo me è un falso mito, ti dico la verità, nel senso che i veri contratti che contano sono quelli che hanno fatto con il Libano e con Cipro, non con Gaza. Però alle soglie della guerra l'Italia ha chiuso un contratto per Emilia. Ma esiste già, cioè nessun diritto internazionale proteggerà i palestinesi dal fatto che controllano un braccio di mare che non supera i 30 metri, per cui il gasdotto c'è già, non hanno bisogno di Gaza per farlo. Quello è assolutamente un falso mito, una bufala sostanzialmente. Il gasdotto c'è già, lo faranno, i soldi se li prenderà Israele, e in violazione di qualunque diritto internazionale ai palestinesi, nonostante siano le loro risorse, non verrà dato nulla. Non hanno bisogno di questa guerra per quello, assolutamente. A questo punto, terrorizzati anche, perché è ovvio che sia stato uno shock, da quello che è successo il 7 ottobre, l'idea, l'unica più o meno condivisa da tutte le anime, è come la chiamano loro, la bonifica della parte nord della striscia, quindi fino al Wadi Gaza. Significa 1 milione di persone, no? Ma di i coloni che vogliono riprendere Gaza, riprenderla, ricolonizzarla, i militari che non ci pensano minimamente, cioè per questo dico non c'è assolutamente un piano chiaro, c'è un interesse minimo diffuso rispetto a una sensazione, una percezione di sicurezza, per cui è venuto meno il mito che con il controllo elettronico, perché questo era sostanzialmente della striscia, tu potevi avere la sicurezza, che è rappresentato dall'unità 8200. L'unità 8200 è un'unità che unisce Shin Bet, Mossad ed esercito, per cui una sorta di supercamera di regia che praticamente ascolta tutto quello che viene detto a Gaza, no? Monitora tutto quello che viene detto a Gaza, che è un altro motivo di strana sorpresa rispetto a quello che è successo il 7 ottobre, no? Cioè, come potevano non sapere che qualcosa stava bollendo? Addirittura l'intelligence egiziana sostiene di averli informati un anno prima che qualcosa bolliva dentro Gaza, l'ha pubblicato il New York Times. Quello che voglio dire è che non esiste una visione condivisa, anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Lascia stare poi le opposizioni, perché Lapid e Gantz hanno un'altra visione ancora. La comunità internazionale ti fa capire quanto conoscono la situazione sul campo, che si presenta Biden con Blinken e dice rimettiamo la NP qua. Cioè no, per cui veramente non c'è all'interno, non c'è un chiaro processo. Mentre il 48, il 67, il 73 avevano delle strategie nazionali pensate molto prima, largamente condivise, no? dalle teste pensanti delle istituzioni, avevano dei veri e propri piani, no? Di colonizzazione, di nascita dello Stato, dei vari step. Questo giro non c'è un piano chiaro su Gaza, perché è spaccata la società israeliana. E questo però è una pessima notizia per i palestinesi, perché vuol dire che questa operazione si trascina in questa forma di violenza e di brutalità proprio perché non hanno un obiettivo chiaro. E la sensazione, così come sta succedendo con Hezbollah Nord, è che per certi versi si tenti in tutti i modi di far esplodere la Cisgiordania. Perché il livello di violenza sulla West Bank rispetto a quello che la West Bank sta facendo è inspiegabile, perché ci saranno stati 2 scioperi neanche troppo partecipati in West Bank, no? Eppure il livello di pressione sui civili in West Bank è fuori controllo. Perché? Perché in questo momento più dura la guerra, più Israele può rimandare una serie di momenti chiave che comprendono anche quello di vabbè, ma mo di Gaza che ne facciamo? Vabbè, sì, per questo si parla, insomma. Cioè, nel senso, il piano di annientamento è lì da anni e per me, in ottica strategica e di visione, è evidente che, cioè, il piano di pulizia etnica è chiarissimo. Ed è chiarissimo da almeno la fine della seconda intifada. Da 48 che è chiarissimo il piano di pulizia etnica. Ovvio. E per cui cosa è cambiato con la seconda intifada? Beh, con la seconda intifada hai comunque un voglio entrare nell'argomentazione, ma per me il punto è come perché non riusciamo a vedere che questo. No, non perché non riusciamo a vedere. Non sono d'accordo con il fatto che non ci sia un piano effettivamente di visione strategica di lungo termine, per cui magari il governo Netanyahu in questo momento specifico storico non sa esattamente cosa fare, ma ha comunque il tracciato fatto precedentemente dai governi precedenti, dal piano precedente, dal piano coloniale del 48, di fare pulizia etnica, quindi si muove comunque quella lunga linea, e sul fatto che la città ne esploda, secondo me, almeno per quello che io ho visto, io non posso più accedere lì da 5 anni, quindi sono cambiate tante cose, ti assicuro. Sono sicura che siano cambiate tante cose. Nel frattempo io ci ho vissuto 3 anni lì, e quello che ho visto della società palestinese, e che tu in realtà hai confermato questa sera, è che ha confermato anche Nasi, cioè una società palestinese sempre più abituata a vivere quello che vive, no? E quindi in realtà che in parallelo vive quello che viviamo anche noi, cioè una frammentazione, un'individualizzazione, un'atomizzazione della società, con il neoliberismo che avanza e impera, perché la Cisgiordania, soprattutto Ramallah, cioè è dominata dal neoliberismo e dal profitto, da chi profitta in realtà dall'occupazione. Quindi non mi stupisce che sia aumentata la violenza in Cisgiordania, perché della Cisgiordania non deve fregare un cazzo a nessuno dalla fine della seconda intifada, come dicevate anche prima, no? Cioè, qua chi parlava di Palestina prima del 7 ottobre? Pochissime persone, pochissime realtà. Quindi io penso, a livello strategico, se fossi Israele, cioè penserei che questo è il momento perfetto in realtà per continuare a fare quel lavoro di progressiva erosione della possibilità di vivere all'interno della Palestina, perché poi parli con... Ma è esattamente quello che ho detto io, cioè loro stanno provocando, stanno cercando in tutti i modi di far esplodere una resistenza armata in Cisgiordania, perché vabbè, questo lo dici tu, non lo so se non esploderà, io mi baso sui documenti, io faccio giornalista, io mi baso sui documenti. In questo momento il livello di pressione che viene messo sui civili in Cisgiordania non è giustificato, come dicono loro, secondo quelli che sono i caveat delle regole di ingaggio dell'esercito israeliano, da niente. Quella pressione dà la sensazione dall'esterno di voler in qualsiasi modo provocare una reazione in West Bank, anche se c'è tutto quello che hai detto, che ho detto io prima, che c'è questa stasi che è dovuta a tanti fattori e così via. Questa è West Bank. Sul disegno della pulizia etnica è qualcosa che ha sempre funzionato nella misura in cui è un obiettivo di lungo termine, un obiettivo praticato dal 48 e non certo dalla seconda intifada e così via. Personalmente resteremo in disaccordo, non esiste in nessun livello pratico, militare, reale, internazionale, dei paesi vicini e quant'altro, la possibilità fisica di espellere tutti i palestinesi da Gaza, per cui Gaza resterà in una condizione, almeno all'inizio, peggiore di prima, drammaticamente peggiore di prima, compressa, perché a questo punto loro aumenteranno lo spazio di compressione, probabilmente tanta gente rischia di finire dall'altra parte, ma che l'idea è che questa guerra non finisce finché non ammazzano tutti i palestinesi, no, non sono d'accordo, cioè non c'è nessuna evidenza per dirlo, non, se non dirlo perché lo pensiamo noi, non io. No, per quello dico, però io non dico cose che penso, cioè nel senso cerco sempre di vedere e poi di verificarle con dei fatti, no? Se no faccio altro fa nella vita. Beh, ma sai, genocidio, io ci ho scritto un libro che è un genocidio, capito? Perché, però parlando coi fatti, no? Ah beh, certo, quello è sicuro. Ok, grazie mille a tutti e tutte anche per la partecipazione, per le domande. Volevo solo fare una piccola precisazione. Il fumetto è in vendita stasera. Sì, è meraviglioso. Laggiù i soldi vanno direttamente in Cisgiordania, quindi per saperne di più delle loro storie, di tutte le persone che abbiamo incontrato, di come è brava, sei brava Elena a disegnare. Grazie a Chicco, veramente prezioso, anche lui è bravissimo, non ha bisogno di sentirlo dire da me però. E grazie anche a tutti voi e tutte voi per essere state così tante e tanti stasera, è veramente bello, e anche dalla radio, quindi si può riascoltare come podcast volendo. Mazzata.